Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Ultima puntata per questo ciclo. I saluti vi vengono anche da Riccardo Poli, che era quest'oggi con me a confezionare la puntata di oggi, e da Valeria Bernardi, che quest'oggi darà invece musica e ritmo. Le coordinate per interagire con noi sono 349-238-6666 se volete fare domande o commenti. La mail è nessunluogo@radio24.it e poi naturalmente ci trovate online nella pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. E allora, siccome Nessun Luogo è Lontano, andiamo diretti in Iraq. The attacks struck Shiite areas in southern Iraq and Baghdad and left dozens dead and injured. Car and roadside bombs were used. According to the Iraqi Ministry of Interior, the targets were all civilian. The deadliest explosion hit a group of Shiite pilgrims who were passing. La capitale, Baghdad, ma non solo, anche città del sud, sono state colpite da una serie di attentati ieri. Circa 60 i morti, ma è un bilancio provvisorio, decine di feriti. Che cosa sta accadendo? Una generale insicurezza, un conflitto tra sciiti e sunniti, e l'Iraq che scivola inesorabilmente verso il caos. Perché questo conflitto è ancora? Questa lotta fra sunniti e sciiti è puramente religiosa? L'abbiamo chiesto a Marcella Emiliani, esperta di Medio Oriente e professore associato all'Università di Bologna. La partenza delle truppe americane ha lasciato la sicurezza solo in mano all'esercito e alla polizia nazionali, che sono corpi non consolidati e quindi molto sensibili alle tensioni settarie e confessionali, come del resto si sta dimostrando in questi giorni. La matrice però non è religiosa, la matrice è squisitamente politica, nel senso che ormai gli sciiti, essendo la maggioranza della popolazione, hanno monopolizzato tutte le posizioni politiche di potere. I sunniti, che hanno gestito il paese fino al 2003, fin dalla creazione durante il mandato inglese del 1922, non intendono in alcuna maniera di essere emarginati, non vogliono dipendere dalla buona volontà politica degli sciiti e dei curdi per poter dire la loro ancora oggi in politica. Poi naturalmente in tutto questo esistono anche le code impazzite di movimenti fondamentalisti vari. E allora quale futuro per l'Iraq? Ancora la professoressa Emiliani. Quello che si prefigura è questo conflitto a bassa intensità che molto probabilmente si andrà moltiplicando in varie aree del paese, ma avrà il suo epicentro nel cosiddetto triangolo attorno a Baghdad. Non scordiamoci che Baghdad, che una volta era una città interconfessionale, dal 2003 ad oggi è stata compartimentata in settori, ci sono state delle epurazioni etniche. Un altro dei motivi che può riaccendere questa conflittualità è la conflittualità intra-sciita, che può sfruttare anche i sunniti. All'interno della compagine sciita esistono diverse formazioni e c'è una lotta di potere tra queste forze. Quella, diciamo, più populistica è quella di Muqtada al-Sadr, che è il vero leone rampante della politica sciita e che è più vicino a queste fasce marginate e che contesta naturalmente partiti come lo Sci, cioè il Supreme Council of Iraq, che fanno capo al grande Ayatollah al-Sistani, che invece sono più di establishment medio-alto. A fianco di varie formazioni sciite si possono schierare anche sunniti, quindi sono due tipi di conflitto che entrambi insistono sul controllo del potere. E dunque un conflitto di potere, un conflitto fra poteri e per il potere, intriso di religione, che deve andare a colmare un vuoto inesorabilmente lasciato dal ritiro delle truppe americane. Ma adesso cambiamo decisamente pagina. Voltiamo pagina e parliamo di un settore che, secondo fonti delle Nazioni Unite del 2010, vede 35-40 mila soggetti. un giro di affari di 25 miliardi di dollari. Solo per l'Italia stiamo parlando di 500 milioni di euro, parliamo delle ONG, che si occupano di sviluppo nei paesi del sud del mondo. Allora, per parlare di questo tema ci vorrebbero 10 puntate, probabilmente di nessun luogo lontano, per cui oggi cercheremo di rispondere a alcune domande precisamente. Una di queste domande è: quanto fa bene la cooperazione allo sviluppo? Cioè, quanto fa bene, chi fa del bene nel sud del mondo? Vi faccio alcuni esempi. Dopo l'emergenza di Haiti, i medici di Médecins Sans Frontières si sono sostituiti fondamentalmente ai medici haitiani e davano le cure di base, quelle che dovrebbero dare gli ospedali pubblici. In Guinea-Bissau, faccio un altro esempio che ho visto con i miei occhi, una clinica privata eccezionalmente ben costruita faceva un lavoro eccezionale sulle donne sieropositive. Non solo forniva loro le cure, ma faceva anche opera di sensibilizzazione e di prevenzione. E allora, nel momento in cui degli operatori stranieri vanno a fare quelle cose che uno Stato dovrebbe fare, non li stanno in qualche modo tagliando le gambe, non li stanno privando della possibilità di alzarsi, di togliersi queste stampelle col marchio magari dell'ONG e di camminare da soli? Questa è la domanda a cui vorrei cercare di dare una risposta, e magari aspetto anche i vostri contributi, gentili ascoltatori, al 349-238-6666, se sono condensati in 160 caratteri, oppure quelli più lunghi alla mail nessunluogo@radio24.it e infine la pagina Facebook Nessun Luogo È Lontano. Intanto do il buongiorno ai miei due ospiti di oggi, che sono Giulio Marcon, autore del libro Le ambiguità degli aiuti umanitari, portavoce della campagna Sbilanciamoci, persona che conosce molto bene il mondo della cooperazione e dello sviluppo. Marcon, buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno anche a Francesco Petrelli, che è presidente dell'associazione delle ONG italiane. Petrelli, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, andiamo diretti a bomba. Quando un ONG o quando un'associazione va a muoversi in un paese straniero e fornisce un servizio di assistenza, che è un servizio per il quale dovrebbe essere deputato invece lo Stato che la ospita, fa del bene o fa del male? Giulio Marcon. Ma fa sicuramente del bene. Volontari, attivisti, cooperanti che vanno nei paesi del sud del mondo, nei paesi che sono colpiti da guerre, da conflitti, sono animati ovviamente da una motivazione etica e da un senso di responsabilità verso gli altri molto alto, quindi bisogna dire grazie a queste persone che si spendono così, in un modo così generoso per gli altri. E poi bisogna analizzare attentamente quali sono gli effetti, quali sono le conseguenze, quali sono i risultati che queste attività portano in questi paesi, e quindi capire come le ONG sviluppano e portano avanti i loro progetti, quali sono i risultati di questi progetti, come vengono spesi i soldi, qual è l'impatto sui cosiddetti beneficiari, cioè sulle popolazioni locali. E quello che bisogna dire è che in questi anni sono emerse alcune contraddizioni: da una parte appunto questa spinta etica e questa forte partecipazione di persone che cercano di fare del bene agli altri, dall'altra parte dei meccanismi e dei modi di funzionare del mondo umanitario che ha portato e ha fatto emergere delle contraddizioni, anche diciamo dei danni che sono stati purtroppo causati in quei luoghi e a quelle popolazioni dove si è intervenuto. Ci sono numerosi casi testimoniati in questi anni, lei ne ha citati alcuni, io ricordo il caso del Kosovo dove l'anno in cui è finita la guerra, nel 1999, non si trovavano più insegnanti d'inglese nelle scuole del Kosovo perché tutti erano impegnati a fare i traduttori e gli interpreti delle ONG e delle organizzazioni internazionali. Questo è il classico esempio, diciamo, di come l'aiuto umanitario, se è invasivo, se è calato dall'alto e se non coinvolge le popolazioni locali, può in realtà provocare, diciamo, delle distorsioni nelle società e nelle economie locali. Francesco Petrelli, presidente dell'associazione delle ONG italiane, nel momento in cui io vado in Congo, vado in Sudan e costruisco un pozzo e quindi fornisco acqua ai cittadini di quel paese, e io in realtà sto facendo un lavoro che dovrebbe fare il Ministero delle Acque Potabili o il Ministero dell'Agricoltura di quel paese, non lo sto deresponsabilizzando, non li sto alla fine togliendo una funzione che dovrebbe essere sua, e quindi alla fine che cosa sto facendo? Ma in realtà è un problema complesso, perché non ci sono solo le guerre o le cosiddette catastrofi naturali, c'è quella guerra o quella catastrofe permanente che si chiama povertà e che riguarda ancora oggi nel 2012 1,5 miliardi di persone che, secondo un dato quantitativo che dice molto ma non dice tutto, vivono con meno di $1.25 al giorno. Io vorrei fare una premessa: le ONG in linea di principio si caratterizzano rispetto a tutti gli altri enti o soggetti per lavorare con i partner locali, con le associazioni di società civile, contadini, le donne, sì, i sindacati, anche con le istituzioni locali. Quindi l'approccio è quello di un lavoro fatto non per ma con il partenariato, la partnership. Questa è la nostra, diciamo, condizione connotativa, la nostra carta d'identità. Questo ovviamente non risolve tutti i problemi o i rischi di distorsione dell'aiuto, di dispersione delle forze, di mancanza di coordinamento e di efficacia, ma certamente, diciamo, creano le condizioni, perché la lotta alla povertà non si risolve con un progetto, con un pozzo, ma è un processo che deve partire dal protagonismo, dalla riacquisizione di autodeterminazione della gente del posto, senza il rischio è quella della deresponsabilizzazione. E su questo punto, insomma, io continuo a battere, perché mi sembra, gli ascoltatori lo sanno, frequento piuttosto spesso il Congo e mi sembra un esempio lampante, no, di come certe situazioni che all'inizio erano di emergenza si sono poi in qualche modo incancrenite in situazioni dove veramente c'è bisogno di tanto, ma dove, faccio un esempio su tutti, a Goma, capitale del Nord Kivu, nella sola Goma ci sono 95 ONG. È chiaro che lì si è consolidata una situazione, perché l'emergenza ce n'è stata una 15 anni fa, una 10 anni fa, una 5, insomma, di emergenza in emergenza si continua a stare lì. E però non ci si preoccupa del fatto che c'è uno Stato congolese che invece dovrebbe fare e che grazie alla presenza occidentale invece poi si ritrova inesorabilmente a non fare. E questa visione è ripresa anche da alcuni pensatori africani in maniera molto lucida, tra cui ad esempio Dambisa Moyo, che è un economista, che addirittura ha presentato una posizione molto provocatoria. Dice: in 5 anni fuori tutti gli aiuti dall'Africa, per dire noi abbiamo bisogno di camminare da soli, e quindi alla fine al posto di live aid lei dice dead aid, cioè l'aiuto sta uccidendo il continente. Giulio Marcon, su questo specifico punto, perché io insomma io continuo a battere sul problema della responsabilità, perché non si fa qualcosa in questo senso? Cioè io ho l'impressione che alla fine si vada a procrastinare una situazione e ci sono dei signori, dei governanti, dei ministri in certi paesi che devono prendersi le loro responsabilità. Perché non abbiamo il coraggio di fare questa cosa? Ma io sono d'accordo, nel senso che se prendiamo le politiche degli ultimi 30 anni, soprattutto le politiche delle grandi organizzazioni economiche, finanziarie internazionali, e faccio riferimento alla Banca Mondiale, quello che è successo è sostanzialmente l'imposizione di piani di aggiustamento strutturale, cioè di riduzione del debito dei paesi poveri verso i paesi ricchi, e questo lo si è imposto imponendo a questi paesi di tagliare ad esempio la spesa sociale, l'intervento dello Stato, e quindi i servizi per le popolazioni. E quello che poi è successo è che la stessa Banca Mondiale, che aveva imposto a questi paesi di tagliare le spese, poi magari ha dato finanziamenti alle ONG per gestire quegli stessi servizi che erano stati tagliati per questo motivo. Allora, qui certo, c'è una contraddizione. È anche una struttura. Marcon, devo interromperla perché c'è l'informazione finanziaria e poi di nuovo Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, gentili ascoltatori. Quanto fa bene chi fa del bene nel sud del mondo? Di questo stiamo parlando oggi in Nessun Luogo Lontano, del ruolo dell'ONG negli stati del sud del mondo, cosiddetto sud del mondo. Una situazione che vi citavo in apertura di trasmissione, Dambisa Moyo, questa economista africana, chiama un continente sotto regime di welfare, parlando del suo continente, dell'Africa, cioè di un assistenzialismo, di una cultura ormai che si è consolidata, si è forse incancrenita. Volevo fare questa domanda un po' cattiva, però a Pretrelli, però con una precisazione: qua non stiamo facendo di tutto un erbo un fascio, né stiamo mettendo alla gogna il mondo dell'ONG, lungi da noi, però ci sono luci e ombre, e allora mettere in luce le zone d'ombra consente sicuramente di avere una visione più chiara e probabilmente di lavorare tutti meglio. Pretrelli, non c'è un certo interesse da parte dell'ONG a procrastinare delle situazioni di emergenza e quindi di assistenzialismo, oppure il meccanismo è sufficientemente lucido da dire: bene, abbiamo costruito il pozzo, non c'è più bisogno di noi, ce ne andiamo, bene, abbiamo formato una classe medica, adesso è ora che camminino con le loro gambe. Questo è il nostro obiettivo, questo è il nostro obiettivo ed è il modo con cui spesso cerchiamo in situazioni difficili di lavorare. Attenzione, Dambisa Moyo, che è molto suggestiva, dirigente della Banca Mondiale, proprio di quella Banca Mondiale che ha creato con l'imposizione di politiche e condizioni di povertà, rischia di buttare il bambino con l'acqua sporca, perché gli aiuti, quando sono ben indirizzati, servono ancora. Cito due dati: negli ultimi 10 anni 30 milioni di bambini hanno potuto accedere all'istruzione di base con i programmi internazionali Nazioni Unite, che hanno visto come protagonisti e le ONG locali e le ONG internazionali. 4 milioni di persone con il Fondo Globale di Lotta all'AIDS sono state salvate da questa terribile malattia che è condizione e causa di povertà. Non vedo l'alternativa che propone Dambisa Moyo nei contratti fatti casomai con la Cina, grandi opere che incrementano la corruzione locale, con la manodopera forzata cinese che devastano l'ambiente. Io credo che bisogna lavorare per fare in modo che ci sia una riappropriazione di quelle due condizioni che sono indispensabili per combattere la povertà. La prima è uno Stato efficace, e uno Stato efficace vuol dire anche uno Stato di diritto rispettoso della propria società civile. Senza lo Stato di diritto non c'è neanche la possibilità di creare condizioni di un mercato possibile, che è uno strumento di crescita e di lotta alla povertà. La seconda condizione è la cittadinanza attiva, cioè la possibilità dei cittadini di incidere sui processi che li riguardano e che riguardano il loro futuro. Questi sono due elementi essenziali per la lotta alla povertà. Concludo dicendo una cosa: la lotta alla povertà oggi ha caratteristiche nuove. 3/4 dei poveri sono nei paesi a medio reddito. Anche in quell'India o in quella Cina, che crescono con un PIL a due cifre o che sono cresciuti con un PIL molto alto in questi anni, no? Le potenze non emergenti emerse, sì. Proprio quei paesi hanno al loro interno grandi contraddizioni, quindi bisogna anche ripensare i nuovi caratteri della povertà, che sono nell'Africa subsahariana, che è il punto di crisi del pianeta, ma c'è un problema di riequilibrio, di equità, che è una delle caratteristiche, insieme allo Stato efficace e democratico e alla cittadinanza attiva. Cioè, noi facciamo empowerment, cerchiamo di dare forza e autonomia a quei soggetti, attori sociali ed economici, che sono quelli che possono mettere in moto la crescita e l'uscita dalla povertà. C'è un problema però: bisogna fare politiche coerenti. L'Europa, la comunità internazionale, i paesi che contano devono fare politiche coerenti, non possono fare un aiuto a volte non efficace, è vero, e insieme porre condizioni del commercio internazionale inique e punitive. Non possono accaparrare terra in milioni di ettari, perché questa sarà la risorsa del futuro, col fenomeno del land grabbing. Sì, di cui fra l'altro siamo occupati proprio nei giorni scorsi. Sì. Predicare democrazia, anche quello che si diceva prima dell'Iraq, sono altro che nation building, sono ancora gli effetti di scelte disastrose fatte 10 anni fa dalla comunità internazionale, di cui la comunità internazionale, i paesi che contano, i nostri paesi, portano grandi responsabilità. Poi ci sono le responsabilità degli stati e delle classi dirigenti locali, non c'è dubbio. Certo, certo. Classi dirigenti locali che a volte appunto non si prendono le responsabilità che dovrebbero. Lei giustamente citava il fatto che Dambisa Moyo ha lavorato alla Banca Mondiale, fra l'altro ha lavorato anche in Goldman Sachs, giusto? Per citare un grande gruppo, sì, è vero, è affascinante anche la sua, è un po' un alfiere, no, di questa posizione intellettuale, ed è estremamente affascinante, un po' perché è affascinante lei, e un po' perché un economista, un intellettuale africana che dice: basta, congeliamo gli aiuti all'Africa per 5 anni, è una bella posizione provocatoria su cui magari noi giornalisti ci tuffiamo a pesce, insomma, perché è proprio un caso emblematico. Non abbiamo forse però un pizzico di arroganza intellettuale, e rivolgo la domanda a Giulio Marcon, nel dire andiamo lì e li aiutiamo? Cioè, non c'è anche una, come dire, un circuito vizioso di dipendenza proprio intellettuale? Cioè, noi siamo superiori, state lì adesso e arriviamo noi a salvarvi. Ma penso di sì, nel senso che nell'aiuto c'è sempre, come si dice, un'impostazione asimmetrica, cioè c'è chi aiuta e chi ha aiutato. chi è donatore e chi è beneficiato. E c'è un rapporto di dipendenza, l'aiuto umanitario è spesso invasivo, è spesso impositivo, è spesso, come posso dire, colonizzante le economie locali, e quindi da questo punto di vista è importante passare dal concetto di aiuto alla pratica della cooperazione, che in questi anni è stata demolita, perché io vorrei ricordare che in questi anni i flussi di risorse si sono spostati progressivamente dai progetti, dagli interventi di cooperazione che sono a medio e lungo termine, agli interventi di carattere umanitario, che sono interventi che fanno fronte a delle emergenze. Sì. Quindi questo aspetto dell'aiuto umanitario, che è più anche diciamo spendibile dal punto di vista mediatico, che è più spendibile dal punto di vista politico, perché i soldi appunto vengono utilizzati subito, si fa fronte a delle emergenze che hanno bisogno di interventi diciamo immediati, questo ci deve far riflettere. Quindi bisogna passare da un'idea di aiuto che presuppone, come veniva ricordato, diciamo un concetto di dipendenza, di assistenza e di invasività, a una pratica della cooperazione che deve essere per forza legata diciamo a quelle politiche economiche e finanziarie che devono cambiare, perché gran parte della povertà dipende proprio da questo, certo, da rapporti economici ingiusti ed un ordine economico mondiale che andrebbe cambiato. Certo. Fra l'altro, alla logica dell'emergenza va di pari passo un'altra logica che io trovo viziosa, insomma, la stessa stregua, che è quella della spettacolarizzazione di certe emergenze, a volte con facce note. But coming to Malawi almost 4 years ago has opened my eyes to many things. The most important is that we as human beings have a responsibility to help other human beings, whether they live down the street or on the other side of the world. If you'd said to me in 1984 that in 2010... E nell'ordine avete sentito Madonna, il suo impegno in Malawi, poi c'era Bob Geldof con i suoi super concerti, però c'è Angelina Jolie e George Clooney che si fanno vedere in Darfur. Tutto questo crea una sorta di circuito pubblicitario per cui un'emergenza dà notorietà a un personaggio, il quale personaggio dà notorietà all'emergenza. Vorrei un commento da parte vostra, sintetici, perché siamo quasi in chiusura. Petrelli, su questo punto. Sì, esiste in Kosovo, durante lo tsunami e in altri casi, Haiti stessa, un rischio di distorsione dell'aiuto che porta a un'iperconcentrazione che è prodotto dalla presenza mediatica. Ma perché lo tsunami è stata la più grande emergenza umanitaria su cui si sono mobilitate più risorse? Perché c'erano alcune migliaia di turisti occidentali. E poi il Pakistan, un anno dopo, che ha avuto effetti di questo genere, non c'è stata nessuna mobilitazione di risorse paragonabili. C'è il rischio della distorsione. I testimoni aiutano a portare avanti alcune cause presso il pubblico, perché noi dobbiamo anche rendere conto al cittadino contribuente di quello che facciamo, noi ONG, noi Stati, noi Nazioni Unite che ci stiamo impegnando. Il problema è però un altro, è la responsabilità comune. O noi immaginiamo il mondo, per questo citavo il dato della povertà che oggi c'è in India o in Cina, o noi assumiamo questa responsabilità comune in una prospettiva di sviluppo comune possibile, o altrimenti rischia di essere palliativo o spettacolo. Grazie allora Francesco Petrelli per essere stato con noi. Petrelli, presidente dell'Associazione delle ONG Italiane, buona giornata, buon lavoro. Buongiorno. E in chiusura, Marcon, il mondo dell'ONG va salvato? Se sì, cosa lo salverà? Telegrafico. Sì, va salvato, però deve essere capace di autoriformarsi, di cambiare. Molte cose non vanno bene, ci sono delle pratiche che vanno sicuramente adeguate rispetto alle esigenze attuali e bisogna in qualche modo ricondurre il lavoro delle ONG alla loro origine, che è un'origine fatta di solidarietà e di comportamenti che sono diciamo eticamente riconducibili all'impegno di tanti volontari, di tante persone che vanno nei paesi del sud del mondo. Insomma, bisogna rifuggire sia dal business umanitario, ma anche da atteggiamenti un po' parastatali, di dipendenza dalle istituzioni pubbliche. Questa è la sfida principale che le ONG devono affrontare oggi. Grazie allora anche a Giulio Marcon, autore del libro Le ambiguità degli aiuti umanitari e portavoce della campagna Sbilanciamoci. Buona giornata, buon lavoro. Buongiorno, grazie. E siamo in chiusura, c'erano un po' di sms, alcuni di suggerimenti, leggete Polterù, Dark Star Safari, ancora chi dava all'ONG dei lupi travestiti da agnelli, no, non è assolutamente così, come si diceva, ci sono luci ed ombre, poi un po' di messaggi in realtà di sponsorizzazione, Rotary non fa pozzi o impianti di potabilizzazione, eccetera, eccetera, il tempo è scaduto. Questa era l'ultima puntata per questo ciclo In Nessun Luogo È Lontano. Devo ringraziare Riccardo Poli per aver condiviso con me questa avventura, Valeria Bernardi che ha dato musica e ritmo alla puntata. Io spengo il microfono, riprendo lo zaino. Un saluto da Giampaolo Musumeci.